Vicino all'inferriata c'è la cava dove i sonni profondi vanno a cercare le sostanze di cui rivestono la nostra testa con patine così tenaci che, anche nella mattina più dorata, la volontà del dormiente è costretta, per svegliarlo, a menare gran colpi d'ascia come un giovane Sigfrido. Ancora più in là stazionano gli incubi, che secondo l'insulsa opinione dei medici affaticano più dell'insonnia, mentre è vero, al contrario, che consentono all'essere pensante di evadere dall'attenzione. Gli incubi, con i loro album fantasiosi in cui i nostri genitori defunti hanno appena subito un grave incidente dal quale non è affatto escluso che possano presto rimettersi, e nell'attesa li teniamo rinchiusi in una gabbietta per sorci dove sono più piccoli di topolini bianchi e cosparsi di grossi brufoli rossi, da ciascuno dei quali spunta una piuma, ci tengono discorsi ciceroniani. Accanto a questo album c'è la piattaforma girevole del risveglio, dalla quale ci viene inflitta per un istante la seccatura di dover rientrare al più presto in una casa distrutta da 50 anni e la cui immagine, man mano che il sonno si allontana, è cancellata da numerose altre, finché arriviamo a quella che si presenta soltanto quando la piattaforma si ferma, l'immagine coincidente con la casa che vedremo appena aperti gli occhi. A volte non avevo sentito nulla, trovandomi dentro uno di quei sogni, nei quali precipitiamo come in un buco da cui, un po' più tardi, siamo felicissimi d'essere tirati fuori, mentre, grevi, ipernutriti, stiamo ancora digerendo quanto ci è stato somministrato, come dalle ninfe che nutrivano Ercole, dalle agili potenze vegetative, la cui attività si moltiplica mentre noi dormiamo. È quello che siamo soliti chiamare un sonno di piombo. In effetti, ancora per qualche istante dopo la cessazione di un simile sonno, sembra di essere dei pupazzi di piombo. Non c'è più nessuno. Come mai allora, cercando il proprio pensiero, la propria personalità, come si cerca un oggetto smarrito, si finisce col ritrovare il proprio io e non un altro qualsiasi? Perché quando ci si rimette a pensare non è una personalità diversa dalla precedente a incarnarsi in noi? Non si capisce da che cosa sia dettata la scelta. Ci sfugge la ragione per cui, fra i milioni di esseri umani che potremmo essere, la nostra mano vada a pescare precisamente quello che eravamo il giorno prima. Che cos'è a guidarci quando vi è stata una vera interruzione, o perché il sonno è stato totale, o perché i sogni sono stati completamente diversi da noi? C'è stata una vera e propria morte, come quando il cuore ha cessato di battere e viene rianimato grazie a trazioni ritmiche della lingua. Certamente la camera, quando anche l'avessimo vista una sola volta, desta ricordi ai quali ne sono collegati altri, più remoti. O altri ancora dormivano dentro di noi e noi ne prendiamo coscienza adesso. La resurrezione del risveglio, dopo quel benefico accesso di alienazione mentale che è il sonno, deve assomigliare, in fondo, a ciò che accade quando si recupera un nome, un verso, un motivo dimenticati. E, forse, alla risurrezione dell'anima dopo la morte si può pensare come a un fenomeno di memoria. Quando avevo finito di dormire, attratto dal sole che splendeva in cielo ma trattenuto dalla frescura di quegli ultimi mattini così luminosi e così freddi in cui comincia l'inverno, per guardare gli alberi sui quali le foglie non erano più segnalate che da uno o due tocchi d'oro e di rosa rimasti sospesi nell'aria come in una trama invisibile, sollevavo la testa e allungavo il collo tenendo tuttavia il corpo seminascosto nelle coperte. Simile a una crisalide in via di metamorfosi, era una creatura ambigua alle cui varie parti non conveniva lo stesso ambiente. Allo sguardo bastava il colore, senza calore. Il petto invece si preoccupava del calore e non del colore. Mi alzavo soltanto quando era stato acceso il fuoco e contemplavo il quadro così diafano, così dolce, del mattino move dorato, cui avevo aggiunto artificialmente le parti di calore che gli mancavano, attizzando il fuoco che tirava e fumava come una brava pipa e che, proprio come una pipa, mi dava un piacere al tempo stesso grossolano, perché si basava su un benessere materiale, e delicato, perché lasciava trasparire in filigrana una pura visione. Le pareti del gabinetto erano rivestite da una tappezzeria di carta di un rosso violento, screziata di fiori neri e bianchi, cui mi sarei potuto abituare, apparentemente, solo con una certa fatica. Quei fiori, invece, mi parvero semplicemente nuovi. Mi spinsero ad entrare in contatto e non in conflitto con loro. Influirono, durante la toilette, sulla mia allegria e sui miei slanci canori, immettendomi a forza, insomma, per guardare il mondo che al riparo dal gaio paravento di questa mia nuova dimora, altrimenti orientata e con aria più salubre rispetto a quella dei miei genitori, mi appariva ben diverso che a Parigi, mi mettevano come nel cuore di un papavero. Certi giorni mi assaliva il desiderio di rivedere la nonna, o il timore che stesse male, oppure a turbarmi era il ricordo di qualche faccenda lasciata in sospeso a Parigi e che non procedeva bene. Magari a volte qualche difficoltà nella quale persino qui ero riuscito ad invischiarmi. Qualche preoccupazione di questo genere mi aveva impedito di dormire e mi sentivo inerme di fronte alla mia tristezza che in un solo istante giungeva a riempirmi tutta l'esistenza. Allora, dall'albergo, mandavo qualcuno alla caserma con un biglietto per Saint-Loup. Gli scrivevo che, se gli era materialmente possibile, sapevo che era molto difficile, avesse la bontà di passare un istante. Nel giro di un'ora arrivava e, udendo la sua scampanellata, mi sentivo alleggerito dalle mie preoccupazioni. Sapevo che, se loro erano più forti di me, Saint-Loup era più forte di loro e la mia attenzione se ne distoglieva per spostarsi su di lui che avrebbe dovuto decidere. Era appena entrato e già aveva diffuso intorno a me la luna di quell'aria aperta dove sin dal mattino dispiegava tanta attività. Ambito vitale diversissimo dalla mia camera e al quale, con opportune reazioni, non tardavo ad adeguarmi. «Spero che non me ne vogliate se vi ho disturbato. Ho qualcosa che mi tormenta, l'avrete indovinato». «Ma no, ho pensato semplicemente che desideraste vedermi e l'ho trovato molto simpatico». Ero felice che mi aveste fatto chiamare. Ma come? C'è qualcosa che non va allora? Che posso fare per voi? Ascoltava le mie spiegazioni, mi rispondeva con precisione, ma prima ancora di parlare mi aveva già assimilato a lui. In confronto alle importanti occupazioni che lo rendevano così sollecito, così alacre, così contento, i fastidi che, fino a un istante prima, mi impedivano di sfuggire a un'incessante sofferenza, mi sembravano, come a lui, trascurabili. Ero come chi, non riuscendo da diversi giorni ad aprire gli occhi, faccia chiamare un medico il quale, con abilità e dolcezza, sollevategli la palpebra, estragga e gli mostri un granellino di sabbia. Ecco, il malato è guarito e rassicurato. Tutti i miei guai si risolvevano in un telegramma che Saint-Loup si incaricava di spedire lui stesso. La vita mi sembrava così diversa, così bella, ero invaso da una tale ondata di energia che avevo voglia di agire. «Che fate ora?» chiedevo a Saint-Loup. «Vi lascio, fra 3/4 d'ora il reggimento deve essere in marcia e c'è bisogno di me». «È stato davvero un disturbo allora venire fin qui». «No, nessun disturbo. Il capitano è stato molto gentile. Ha detto che se era per voi dovevo assolutamente venire. Ma capite, non voglio dare l'impressione di approfittare». «E se mi alzassi in fretta e furia e venissi per conto mio nel posto dove farete le manovre? Mi interesserebbe molto e forse durante le pause potremmo chiacchierare un po'». «No, no, no, no, ve lo sconsiglio. Non avete chiuso occhio, vi siete torturato per una cosa che, vi assicuro, è del tutto priva di conseguenze. Ma adesso che non vi tormenta più, giratevi dall'altra parte e dormiteci sopra. Avrà un effetto eccellente contro la demineralizzazione delle vostre cellule nervose. Non addormentatevi troppo in fretta, perché la nostra dannata musica vi passerà sotto le finestre. Ma subito dopo penso che vi lasceranno in pace e ci rivedremo stasera a pranzo. In seguito, tuttavia, andai spesso a vedere le manovre del reggimento in campagna. Fu quando cominciai a interessarmi alle teorie militari che gli amici di St. Loup sviluppavano durante il pranzo e vedere più da vicino i diversi comandanti diventò l'obiettivo delle mie giornate. Come chi fa della musica il principale oggetto dei propri studi e vive di concerti, si diletta a frequentare i caffè in cui si danno convegno gli orchestrali. Per raggiungere la zona delle manovre dovevo compiere lunghi percorsi a piedi. La sera, dopo pranzo, la voglia di dormire mi faceva cadere la testa a tratti come un attacco di vertigine. Il giorno dopo mi rendevo conto di non aver sentito la fanfara più di quanto avessi sentito a Balbec le sere in cui St. Loup m'aveva portato a pranzo a Rivebelle il concerto sulla spiaggia. E nel momento stesso in cui volevo alzarmi, ne avvertivo deliziosamente l'incapacità. Mi sentivo ancorato a un terreno invisibile e profondo dalle articolazioni, che la stanchezza mi rendeva sensibili, di piccole radici muscolose e nutritive. Mi sentivo pieno di forza, la vita mi si stendeva davanti più lunga. In realtà ero rifluito indietro sino alle buone stanchezze dell'infanzia, a Combré, i giorni successivi a quelli delle passeggiate dalla parte di Guermantes. I poeti pretendono che tornando in una certa casa, in un certo giardino dove siamo vissuti in gioventù, noi si ritrovi per un attimo quel che siamo stati allora. Sono pellegrinaggi assai rischiosi, dai quali si può uscire con una delusione come con un successo. I punti fermi, contemporanei delle diverse età, è meglio cercarli dentro di noi. A questo, in qualche misura, può contribuire una grande stanchezza seguita da una notte propizia. L'una e l'altra, facendoci scendere nelle più sotterranee gallerie del sonno, dove nessun riflesso del giorno trascorso, nessun lume di memoria rischiarano più il monologo interiore, seppure anch'esso non vi si spezza, rivoltano così a fondo il suolo e il tufo del nostro corpo da farci ritrovare là dove i nostri muscoli affondano e attorcono le loro ramificazioni e succhiano la nuova vita, il giardino nel quale siamo stati bambini. Non c'è bisogno di viaggiare per rivederlo. È sufficiente per ritrovarlo scendere. Ciò che ha ricoperto la terra qui non è più sopra, ma sotto. Non basta un'escursione per visitare la città morta. Sono necessari gli scavi. Ma si vedrà come certe impressioni fuggitive e fortuite riconducano verso il passato ancor meglio, con una precisione più sottile, con un volo più lieve, più immateriale, più vertiginoso, più infallibile, più immortale, di qualsiasi dislocazione organica. A volte la mia stanchezza era ancora più grande. Per seguire le manovre non mi coricavo da diversi giorni. Che benedizione in quei casi tornare in albergo. Infilandomi nel letto, avevo l'impressione d'essere infine sfuggito a degli incantatori, a degli stregoni, come quelli che popolano i romanzi tanto cari al nostro Seicento. Anche il mio sonno e la mia pigra mattinata del giorno successivo non erano che un incantevole racconto di fate. Incantevole, forse anche benefico. Mi dicevo che persino per le peggiori sofferenze esiste un asilo, che è sempre possibile, in mancanza di meglio, raggiungere il riposo. Questi pensieri mi portavano molto lontano. Nei giorni di riposo, durante i quali, tuttavia, St. Loup non poteva uscire, andavo spesso a trovarlo in caserma. Era distante, bisognava uscire dalla città, percorrere il viadotto dal quale godevo, su entrambi i lati, di una vista sconfinata. Soffiava quasi sempre lassù una forte brezza, che invadeva gli edifici costruiti su tre lati del cortile, facendoli rimbombare come l'antro dei venti. Se Saint Loup era occupato a sbrigare qualche servizio e io l'aspettavo davanti alla porta della sua stanza oppure nel locale della mensa, chiacchierando con certi suoi amici cui mi aveva presentato e che in seguito andai qualche volta a trovare anche quando Robert non c'era, guardando dalla finestra, 100 metri più in basso, la campagna ancora spoglia, ma dove nuove semine, spesso ancora fradicie di pioggia illuminate dal sole, tracciavano qua e là strisce di un verde scintillante e di una limpidezza traslucida, di smalto, mi capitava di sentire parlare di lui e mi resi conto ben presto di quanto fosse benvoluto e popolare. Per parecchi volontari appartenenti ad altri squadroni, giovani borghesi ricchi che osservavano l'ambiente dell'alta aristocrazia soltanto dal di fuori e senza potervi penetrare, la simpatia suscitata da quanto sapevano sul carattere di Saint Loup s'accresceva del prestigio posseduto ai loro occhi da quel giovane che tante volte il sabato sera, quando andavano in permesso a Parigi, vedevano cenare al Café de la Paix in compagnia del duca d'Uzès e del principe d'Orléans. Ed era per questo che alla sua bella faccia, al suo modo dinoccolato di camminare, di salutare, al perpetuo svolazzare del suo monocolo, alla fantasia dei suoi chepì troppo alti, dei suoi pantaloni di un panno troppo fine e troppo rosa, avevano associato l'idea di uno chic del quale, a loro dire, erano sprovvisti i più eleganti ufficiali del reggimento, non escluso il maestoso capitano cui ero debitore d'aver potuto dormire in caserma e che sembrava, al confronto, troppo solenne e quasi ordinario.